Con Gabriella Gallozzi per parlare di Bookchuck Azione, il cinema incontra la letteratura, alla Mostra del Cinema di Venezia. Gabriella, ben trovata. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi. Siamo arrivati all'ottava edizione di questo premio che è cresciuto negli anni fino a diventare l'evento di preapertura delle giornate degli autori, abbinata a quello che è cioè la serata di benvenuto alla stampa, quindi con il brindisi per tutti i giornalisti che da quella sera, cioè il 27, che è martedì, il 27 agosto, si preparano a seguire il festival. Quindi si festeggia tutti insieme i vincitori di questo concorso, appunto, che è dedicato all'intreccio del cinema e della letteratura attraverso quelli che noi chiamiamo i bookchuck, cioè dei corti di massimo 3 minuti che devono in qualche modo raccontare l'emozione del testo, non la storia, cioè non è un book trailer, ma è appunto un'operina, se vogliamo, di videoarte che punta alle emozioni, alle suggestioni del testo. Quest'anno abbiamo, come sempre, delle personalità, insomma, di grande spicco, di grande importanza. Abbiamo Lorenzo Mattotti, l'eminenza delle matite, come è stato definito da Liberazione poco tempo fa, cioè il grande disegnatore che fa il presidente, e affianca la nostra giuria permanente, che è composta da Vilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopin. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche un ritorno molto importante per noi, perché è Citto Maselli, che è stato, come dire, un nostro padre spirituale, che ci ha accompagnato fin dalla nascita del premio, cioè senza di lui appunto Bucciarcazione non sarebbe esistita. È stato lui appunto che ci ha accompagnato alle giornate degli autori e ci ha permesso poi di crescere. Tra l'altro insieme a lui ricordiamo che ci sono stati altri grandi autori come Ettore Scola e Ugo Gregoretti, purtroppo anche lui che è scomparso quest'anno. Infatti dedicheremo a Ugo un piccolo omaggio attraverso una carrellata di fotografie. I libri che abbiamo scelto quest'anno, tra l'altro, sono libri scritti da autrici donne. In particolare l'esperimento di quest'anno è stato un libro di poesie. Non avevamo mai provato a mettere le poesie nella nostra selezione, invece l'esperimento è andato benissimo perché in tantissimi hanno risposto, in tantissimi hanno scelto proprio il libro di poesie. Il libro di cui parlo è La memoria nel corpo di Antonella Sica, di Raiuela Edizioni. Poi un altro libro molto bello che abbiamo scelto per ispirare i bookchuck è La lettrice di Chekhov di Giulia Corsalini, Nottetempo Edizioni. E ancora un graphic novel, come abitudine scegliamo spesso un graphic novel nella nostra selezione, che è War Painters, come l'arte salva dalla guerra di Laura Scarfa, che è un'importante disegnatrice, tra l'altro appunto veneziana, che racconta la guerra di trincea nella prima guerra mondiale, insomma, sì. E soprattutto questi pittori, forse non tutti sanno, non lo sapevo neanche io prima di aver letto questo graphic, che durante la prima guerra mondiale tutti i battaglioni, in qualunque esercito, c'erano dei pittori che erano addetti a disegnare, a fare queste cartoline poi da inviare al fronte, come dei fotoreporter, insomma, felice, con la pittura. Questi sono i libri. Poi abbiamo, come al solito, la sezione, quella dedicata alla memoria, Memory Shack, in collaborazione con lo SPI e Libera Età, con lo SPI CGIL e Libera Età, e quest'anno abbiamo il libro di Renato Gorgoni, La Bella sulla Mita, che è dedicata appunto alla Napoli occupata e a una sorta di rivolta messa in atto dai ragazzini dei quartieri attraverso quelle che erano le figurine perugina. E soprattutto abbiamo, come sempre, come anzi per il secondo anno, e ne siamo molto orgogliosi, la sezione dedicata alle detenute di il liceo artistico Enzo Rossi, che partecipa anche quest'anno con le sue allieve detenute attraverso questi laboratori interdisciplinari che vengono fatti dai docenti e poi appunto dalle detenute. La novità curiosa anche di quest'anno è che abbiamo un ospite speciale, molto speciale, siccome appunto si parla di poesia in questa edizione. Abbiamo un disegnatore decisamente poetico, appunto come Lorenzo Mattotti, un libro di poesie. Abbiamo deciso di invitare un poeta che col cinema ha molto a che fare, Alvaro Rista, e che detto così appunto appunto tutti diranno e chi è? E io rispondo con la battuta, appunto, come nel film di Eccebombo, perché lui viene da là, era il famoso poeta contemporaneo che durante quell'esame di maturità, no, ricorderete che c'era appunto lo studente che dice: io ho portato una tesina su Alvaro Rissa, e tutti i docenti si rivolgono a lui e gli dicono: e chi è? Come chi è? È lui, si siede lì. Quindi dopo 40 anni Alvaro Rissa, in realtà si chiama Cristiano Gentili, e che non è un poeta, ma che è un insegnante, insegna italiano agli stranieri, dopo 40 anni torna di scena, ma proprio nei panni del poeta Alvaro Rissa, per cui sarà con noi appunto a proseguire questo ruolo a distanza di 40 anni, insomma. Come al solito, appunto, Bookchuck mi piace sempre dire che è una carovana, quindi seguirà il suo cammino dopo Venezia anche attraverso altri festival, perché questa è la novità di quest'anno, cioè abbiamo deciso di presentare quindi questi corti, questi Bookchuck, non solo al Festival di Venezia, e questa vetrina è importantissima, ma poi di proseguire, di portarli in mostra ad altri festival e premi in Italia. Infatti saremo ospiti del Solina a Sala Maddalena già a settembre, poi proseguiremo a Spilimbergo alle Giornate della Luce, e poi al Premio Lusso ancora in Sardegna, e poi appunto al Cinema del Reale in Puglia, dove siamo già stati, dove torneremo, e dove attraverso questa collaborazione appunto abbiamo faremo vedere a Venezia sempre la nostra serata un primo assaggio di quello che sarà un work in progress, Facce, di Paolo Pisanelli, che racconterà quelli che sono stati forse i primi e unici sbarchi felici, cioè quelli degli albanesi nel 91 in Puglia. E lui ha ritratto in quell'occasione questi volti, queste facce, questi primi piani, e poi è andato a ricercarli, come dire, 40 anni dopo. Quindi questo è un nostro omaggio, ci teniamo tantissimo, è un nostro omaggio al dramma dei migranti, che in questi ultimi periodi soprattutto purtroppo sono spesso relegati a articoli di cronaca nelle prime pagine. E tra l'altro ospiteremo, presenteremo al pubblico sempre durante la serata questa piccola pubblicità progresso dell'ANAC, cioè l'ANAC ha realizzato una pillolina di un minuto e qualcosa in cui invita gli spettatori appunto ad andare a vedere i film in sala, ad una visione collettiva. È un piccolo corto ironico, e che noi presenteremo appunto nella nostra serata, ma che poi durante il festival sarà proiettato in testa ai film, evento speciale delle Giornate degli Autori, e poi dopo andrà in sala. Ci dai in chiusura i riferimenti web per sapere tutto? Assolutamente. Allora, intanto il sito del premio, che è www.premiobookchuckazione.it con i trattini tra ogni parola, poi il magazine, che è www.bookchuckmagazine, che appunto è il nostro quotidiano online che si occupa dell'intreccio tra cinema e letteratura, e poi il sito delle Giornate degli Autori, giornatedegliautori.it. Ottava edizione del premio Bookchuck Azione, il cinema incontra la letteratura, alla Villa degli Autori al Lido di Venezia, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, martedì 27 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Gabriella Gallozzi. Gabriella, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie.